Alta tensione, suono in progressione. Alta tensione, suono in progressione. Alta tensione, suono in progressione. Alta tensione, suono in progressione. Tensione, suono in progressione.